sì, ci sono, eccomi qua. Buon pomeriggio e bentrovati. Siete in diretta su CRM Happy Radio all'interno di Semplicemente Insieme. Naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Jerry e di Giuseppe, che non so se è arrivato ancora. No, lui al solito è un ritardatario peggio di me. E pazienza, che dobbiamo fare? Andrò da sola. Oggi non lo farò parlare per niente. Oggi mi va così, proprio mi va così. Oggi devo dire una bellissima giornata di sole, finalmente. Era ora, si sta bene. Già anche a maniche corte. Oh, il mio amico Giuseppe è arrivato. Ciao Giuseppe, come stai Giuseppe? Bene, bene, ciao a tutti. Sempre in ritardo tu, ti raccomando, C'è un bel po' di traffico, devo dire. Poi il lungomare è pieno di turisti, quindi... ho ritardato un pochino. Sì, vabbè, vai. Dai, direi di cominciare subito con la bella musica, sempre qui in diretta su CRM Happy Radio. Vi ricordo intanto i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste: il 335-56-37-251 e ancora lo 0921-92-32-92. Vi ricordo che potete seguirci in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it, oppure ancora sul nostro portale Facebook. Mi raccomando, andate a cliccare mi piace sulla nostra pagina, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia.

e c'è un po' di rientro, quindi se i nostri ascoltatori ci dovessero sentire un po' male è per questo. Comunque siamo felici di avere i nostri corsisti qui, gli auguriamo un buon inizio corso e insomma in bocca al lupo. Bene, bene, bene, in bocca al lupo ragazzi, poi naturalmente ci conosceremo meglio. Giuseppe, tu hai qualcosa da dire, una cosa da raccontarci o...? Allora, io ho trovato una poesia sulla primavera. Sai come i bambini che fanno la poesia a scuola sulla primavera? Io l'ho trovata. Ah, bene. Come la posso i bambini declamare? Sì, dai, una cosa veloce però. Non una cosa veloce, non velocissima. Allora, non t'allungare al solito tuo, vai. Ecco, ecco, ecco. Allora, è primavera. Non si può sentire. Vabbè, dai. E lo capisci dalle piccole cose. Il vento che ti scompiglia i capelli e ti batte sul viso. Il colorato e incessante turbinio dei pollini e i bambini che finalmente liberi ti circondano con le loro grida acute e gioiose. Ecco il mio cane che me l'ha rifatta sul piede, così la rottura di scatola è completa. Bene, devo dire, bella questa poesia, mi piace proprio, da te in effetti questo potevo aspettarmi, voglio dire, vabbè. Cosa volevo, qualcosa di romantico? No. Stendiamo un velo pietoso su questa cosa e direi di continuare con la nostra musica, perché guarda, non si può sentire, non si può sentire. Arriva lui, Michael Bublé. Vai! I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up, music's playing, and even if it started raining, boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly. So girls get in line, cause I'm easy, you know, playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, no denying that it's a beautiful day to send this out. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Falso.

porto via con me. Ti porto via con me, il nuovo singolo di Jovanotti che appunto abbiamo appena ascoltato, appunto è riuscito oggi, realizzato bellissimo, con la collaborazione del mega DJ Benny Benassi, che sarà anche uno dei DJ di caratura planetaria che suoneranno nei concerti prima di Lorenzo. Il titolo di questa canzone vuole anche essere una sorta di slogan del backup tour Lorenzo negli stadi. Infatti il cantante dice: deve essere una grande festa, il ruolo del pubblico sarà importante. Voglio prenderlo per mano e accompagnarlo via con me sulle montagne russe della musica. Che bello, che bello. Allora, sono giorni intensi per Lorenzo Jovanotti. Vi abbiamo già raccontato che ieri per una giornata intera ha aperto le blindatissime porte della fortezza di Girifalco di Cortona, dove sta facendo le prove per il suo lungo tour, esatto, estivo negli stadi, che debutterà proprio il 7 giugno ad Ancona e poi toccherà altre 10 città, incluse due concerti a San Siro che si terranno il 19 e il 20 giugno. Il primo è andato esaurito nel giro di pochi giorni, uno all'Olimpico di Roma il 28 giugno e a chiusura a Torino il 16 luglio. Grande Jovanotti, grande Jovanotti, anche veramente. Questo nuovo singolo devo dire che a me piace. A me piace pure. Siamo in due. Siamo in due. Sicuramente ce l'abbiamo siamo... qui, perché è uscito proprio oggi il singolo, ce l'abbiamo qui su CRM, su Semplicemente Insieme. Sì, solo noi abbiamo questo solo singolo. Noi, solo noi. Sì, già va bene. Ok, continuiamo, noi andiamo avanti. Arrivano i Goo Goo Dolls con Iris. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know.

bellissime. Di sole che adesso mi sa che si è un po' nascosto, Giuseppe. Si è eclissato. Hai parlato troppo, mi sa. E poi naturalmente ricordiamo la nostra pagina Facebook, dove potete andare a scrivere CRMP Radio. E poi naturalmente cliccate mi piace. Mi piace, stanno aumentando i mi piace. Noi siamo contenti. Siamo molto contenti. Sai che ho trovato una notizia, no? Tranquillo, oddio. Non è delle, come dici tu al solito, mie un po' strane, non un è un po' per... macabre. No, questo è bello. Ah, questa ti piace, sono contenta. Anzi, mi potrebbe anche addirittura interessare. Ecco. Perfetto. Sai che è uscito un corso in DVD? Sì. Per imparare a portare a cena una ragazza, sì, in realtà senza dover avere una ragazza. Bene. Vediamo come si articola. Cosa? Allora, le relazioni, diciamo, lo sappiamo, con le ragazze possono essere una cosa un po' complicata. Portarle a cena fuori, magari offrire loro la cena. Lo sappiamo. Cercare di intrattenerle senza garanzia di riuscire poi ad essere divertenti e simpatici. No, uno al primo appuntamento sta sempre un po', non sa mai come andrà a finire. Sì, un po' tesi, insomma. Magari anche se un po' per il nervosismo, insomma, magari non si sa cosa dire, insomma, si è sempre un po' agitati. Sì. Beh, dal mi Giappone. Capitato, ti è capitato, Giuseppe? Sì. Nonostante la mia spavalderia, ma mi è capitato. Beh, vabbè, può capitare di mettersi, di trovarsi un po' in imbarazzo di fronte a una signorina, una donna, una giovane donna, no? Sì, e poi se piace ancora di più. E quindi. Dal Giappone però, Giuseppe. Ah, che bello, dal Giappone. Le notizie io le vado a prendere sempre da... dall'altro lato del mondo. Dall'altro lato. Arriva la soluzione anche a questo problema, con un corso in DVD intitolato Mangiamo Assieme, che vuole allenare i ragazzi a conversare a cena durante un appuntamento, quindi con una ragazza. Bello, bello. Praticamente, Giuseppe, il DVD riprende diverse ragazze all'altro capo del tavolo, quindi virtuale, sì, che vi intrattengono facendo quattro chiacchiere con voi mentre mangiano. L'idea è che anche voi stiate mangiando di fronte alla televisione, praticamente. Praticamente, sì. Esatto. Sono stati pubblicati diversi DVD che si distinguono soprattutto per il tipo di cucina che mangiano le ragazze, per esempio. Sì. Il primo della serie è dedicato ai piatti tipici giapponesi, mentre il secondo è ambientato in ristoranti che servono piatti da gusti più occidentali. Praticamente questo DVD è una sorta di pratica, devi far pratica con... Sì, devi praticamente far finta, insomma, devi parlare, interloquire con una televisione. Con la televisione, dall'altro lato c'è una ragazza virtuale, e quindi già questo ti dà modo di fare un po', tra virgolette, pratica per... Davanti a un bel piatto di spaghetti. Spaghetti, davanti ai piatti tipici magari giapponesi, così, questo arriva dalla Cina, perché dal Giappone... Davanti a un buon sushi. Ecco, quindi, vedi? Quindi per te potrebbe essere utile. Che molto dici? Bene, sì, lo vado a comprare immediatamente, anzi se mi dai l'indirizzo lo vado a ordinare. Dopo do l'indirizzo, andate insomma in Giappone, andate sul sito, andate a prendere questa notizia che è interessante anche dall'altro lato, insomma dalla parte delle femminucce può essere interessante. Ma c'è anche la versione maschile? Sì, penso per di le femminucce? Ci dovrebbe essere. Bene, bene, bene. Quindi per chi è un po' imbranato come te, magari potrebbe essere un'idea. Sono un imbranato, diceva Tiziano Ferro. Esatto, ma dai, sto scherzando, lo sai che scherzo, no? Sì, non mi sembri tanto convinto, però. Vabbè, dai, bella però questa notizia, no? Io di solito le do belle, simpatiche, allegre, divertenti. Tu di solito le dai macabre. Non è vero. Ecco. Questa è molto carina, simpatica. Questa è molto carina, molto carina. Dà un aiuto a chi, come te, è imbranato un po', no? Sono un imbranato, lo confermo. Va bene, dai, lasciamo perdere. Continuiamo con la bella musica. E saluto il nostro amico Rambo. Un bacione, Rambo. Lost in all of our vices.

con il suo nuovo singolo Coniugazione Astrale. Bello, devo dire, anche questo. Ti voglio correggere, Jerry. Congiunzione. E ho detto coniugazione. Coniugazione è un'altra cosa. Si coniugano i verbi. Grazie Giuseppe, ma che scoperte. Vabbè, un po' capitare che uno sbagli, no? Assolutamente. Dobbiamo essere per forza sempre perfetti, cioè no, è raro, ma siccome non il titolo è quello, magari lo diciamo bene, bene, bene. Coniugazione astrale, adesso va bene? Congiunzione astrale. Congiunzione, mannaggia, ci leggo male. Vabbè, Congiunzione astrale è il nuovo singolo di Neck, che fa da apripista al suo ultimo nuovo album, intitolato appunto Filippo Neviani, in uscita nei negozi dal 16 aprile. Per il suo nuovo lavoro discografico, che contiene 10 canzoni inedite, Neck ha deciso di intitolare l'album con il suo vero nome di battesimo. Il cantautore italiano, infatti originario di Sassuolo, torna sulla scena della musica con questo suo nuovo album, appunto Filippo Neviani, anticipato da questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che uscirà, ricordiamo, il 16 aprile 2013. Allora, come testimonia anche la scelta del titolo, Filippo Neviani, ed è appunto, per chi non l'avesse ancora capito, il vero nome e cognome di Neck, questo nuovo CD di Neck è un album maturo, dice. Tutte le canzoni dell'album sono prodotte dallo stesso Neck insieme a Dado Parisini e Alfredo Cerruti. L'album è stato registrato in Italia ed è stato mixato in Canada. Filippo Neviani è un disco pop rock in cui Neck trasmette tutta la sua energia di sempre con una nuova voglia di raccontarsi. Bene, grazie Giuseppe per l'informazione. E il primo singolo si chiama Congiunzione astrale. Congiunzione astrale, adesso non lo sbaglio più. E intanto dobbiamo salutare la nostra carissima amica Caterina, che ci sta seguendo da Palermo. Ci augura un buon lavoro e naturalmente anche lei questa sera andrà a vedere il film, perché poi mercoledì giustamente dovrà un po' documentarci. Dovrà documentarci, perché come ogni mercoledì ci sarà Happy Cinema. Quindi la nostra Caterina stasera o anche domani sera andrà a vedere un film. Uno. Credo. Non voglio svelare nulla, insomma. No, non svegliamo nulla, perché sennò poi finisce la sorpresa. Poi mercoledì ne parleremo meglio nel dettaglio, insomma, giusto? Assolutamente, Giuseppe? Sì. Perfetto. E allora noi adesso continuiamo e andiamo avanti con la musica. Continuiamo con Nelly con A Porsche. Hey, Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Yeah, love Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll, roll, roll, roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private show here on the lawn in my garage. I'll take you on the road. Hey Porsche girl, you know what I wanna do? Come and let me slide under so I can work on you. Top off, celebrate the champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, hey, love Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Hey, love Porsche, so right I had to get ya. I want you. go. See how you handle as I'm cruising control. As I make you turn around. Hey, let me turn up your sound. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Distanti accesi nell'aria, due fuochi che non sanno andare via. L'hai scritto quando non c'ero. Dove finisci tu, comincio io. Indimenticabile è la nostra verità. Indimenticabile dopo una notte di felicità. Chissà se dove sei piove, sei come una stagione che non c'è, diversi posti e persone, ma non c'è mai nessuno come te. Indimenticabile è la nostra verità. Ogni giorno è l'ultimo, pochi secondi nell'eternità. Nel mio universo non ti ho mai perso, sei insonnia. Di Gianna Nannini. Su questa canzone salutiamo Elisa che ce l'ha richiesta. Sempre qui vi ricordo il 335 56 37 251, e ancora lo 0921 92 32 92, e il nostro sito che è www.crmpradio.it, oppure la nostra pagina Facebook. Andate a cercare CRM Happy Radio e cliccate mi piace. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ce l'ha segnalata, che ce l'ha richiesta Simona Molinari e Peter Sinkot. Ciao, in cerca Giuliana. Di te, in cerca, chissà. Devo se dire... l'ha trovato, in questo... è in cerca di te, quindi. No, volevo dire che fanno una coppia strepitosa i due insieme. A me piacciono entrambi, devo dire. Per questo genere che vanno dal jazz, pop. Jazz, pop, blues, mi piace. È veramente strepitoso, molto bravi, molto bravi. Poi lui è molto carino, tra l'altro, pure. Va bene. Dettagli. Adesso ho una notizia carina da dare, sì, carina al solito, nel senso questa non è, cioè... è simpatica, però insomma anche un po' il lato negativo, diciamo, un po' non piacevole. Perché praticamente un ragazzo, dopo essersi messo a dieta, viene praticamente lasciato dalla sua fidanzata. Anche questa non è una notizia, devo dire, carina, insomma, non è una cosa carina da fare. Non si fanno queste cose, dai. Diciamo, di solito una persona no, si aspetta che mettendosi a dieta e tornando quindi nel suo peso forma, la sua vita, diciamo, che migliori. In realtà non è così, questo è quello che è successo a un ragazzo americano, dopo aver perso 65 kg praticamente, in un anno, viene lasciato dalla fidanzata, perché praticamente lui viene adesso, è più guardato dalle ragazze, quindi questa mo si è presa forse di invidia, che ne so, di gelosia, e lo ha lasciato, cioè, quindi non si può neanche far dieta più, no, praticamente neanche quello. Però lui non si è scoraggiato, no? Continua comunque adesso, anzi si è iscritto all'università, vuole fare il personal trainer, quindi hai visto? Non si è scoraggiato, e magari troverà tantissime altre spasimanti. Si vede che lei non lo amava per niente. cioè lo amava prima con i chili in più, adesso che è dimagrito, anzi dovrebbe, doveva un po' accertarlo di più, adesso invece bisogna no. Vedere se anche lei, come dire, ha qualche chilo in più, e questo non lo sappiamo, questo no, non c'è scritto non c'è nella scritto. notizia. Sappiamo comunque solo che è stato lasciato dopo aver perso parecchi chili. Poverino, vabbè, poverino, ne troverà subito un'altra sicuramente. Ma sicuramente, sì. Come si dice, morto un papa se ne fa un altro. Esatto. Era. Ecco, esatto, direi. Continuiamo, noi andiamo avanti sempre. Siete in diretta su CRM più Radio all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry e di Giuseppe. Sono le 16:30, ancora un'altra mezz'oretta da trascorrere insieme. I got enough for my mind, that when she pulls me by the hair, she hasn't much to hold on to. She keeping count on her hand, 1, 2, 3 days that I've been sleeping on my side. I finished kissing my dad, so now I head back up the stairs, thinking about where I've been. I mean, the sun was never like this. I wanna feel with the season. I guess it makes sense, 'cause my life's become as rapid as a night out in Los Angeles, and I just wanna stay in bed and hold you like I used to. You know that I am home. So darling, if you love me, would you let me know? Or pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Vedi come passa il tempo, gelida corrente che trascina il mare.

Federico che ce l'ha richiesta sempre qui e noi giustamente l'abbiamo accontentato. Ciao Federico. Ciao Federico. Allora, io ho una notizia, Jerry, per tutti i followers. Mi devo preoccupare? No, no, no, una notizia tecnica per tutti gli amanti di WhatsApp, sai, questa applicazione sì, sui smartphone. Sì. E allora, i rumors parlano di una cifra stratosferica, quasi un miliardo di dollari. Ah, un miliardo di dollari. Ci picchia. Google sarebbe disposto a questo enorme investimento pur di acquisire WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea online sempre più diffuso su smartphone e tablet. Secondo una fonte interna, da 5 settimane sarebbe in corso una trattativa tra il gigante di Mountain View e WhatsApp, appunto. Se andasse in porto, si tratterebbe della seconda acquisizione a 9 zeri dopo quella di Facebook, che l'anno scorso ha incorporato Instagram, l'applicazione gratuita che permette di scattare foto, applicare filtri e condividerle. Bene. Anche tu usi Instagram? No, non lo uso, però diciamo lo conoscevo, però ancora non... È una piattaforma veramente molto, ma molto seguita da tutti. Allora, in WhatsApp Google vede finalmente il sistema di messaggistica che gli manca, in grado di colmare il gap che ha con i suoi rivali, Facebook in testa. Quindi Google non vuole perdere tempo nel rebrandizzare, per così dire, le sue applicazioni di messaggistica: Gmail, Google Talk, Gmail Chat, Messenger, Google Plus, la chat su Google Plus e Google Voice. E quindi si andrebbe a incorporare a tutte queste diciamo applicazioni di messaggistica, quindi chissà, WhatsApp su Google. Chissà, vedremo che succederà, ci riuscirà? Vedremo, vedremo. Ovviamente tutte queste cose tecniche su applicazione eccetera vanno molto di moda. Beh, direi. E si stanno espandendo veramente. Io c'ho anche una nonnina. Sì? Vero. Che ha uno smartphone e si diverte pure con sì, queste dai, cose. Non ci credo. Te la porto qui in studio se vuoi. Portamela in studio così vediamo. Così vediamo, vediamo, vediamo se è così brava anche lei, se è entrata a far parte di questo mondo, di questo, della rete, insomma. Molto brava lei. Vabbè, ok, beata lei, portamela. Se può venire così, nonnina, siamo qui pronti ad ospitarti. Perfetto. Andiamo avanti e vado a salutare sulla prossima che arriva di Vasco Rossi. Un carissimo amico che in questo momento ci sta ascoltando, Marco, un bacione grande e buon lavoro Marco. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Che per me tu senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Bravo Marco. Ecco che arriva la prossima. E su questa canzone saluto Yaya e Luciano. Luciano, un bacione grande. Non perché non voglio darlo anche a Yaya, però Luciano riparte, torna a Torino. Un bacione Luciano, ciao. Ciao. How it all turned to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Tutto è così leggero da quando sei qui a darsi. sollievo ad ansia ostacoli. Quanta gente mi diceva non fidarti mai di lui, con l'invidia di chi spera soltanto nei tuoi guai. Casomai è meglio, tutto è cambiato, casomai lo sbaglio è non averti incontrato tempo fa, un po' prima, l'emotività formasse il mio carattere, mentre il mondo giudicava perché hai scelto tra me e lei, dietro i vetri sussurrava non è più la stessa ormai, casomai il meglio. Giacomo che ce l'ha richiesta sul nostro sito, che ricordiamo ancora una volta è il www.crmpradio.it. Ci seguono da tutte le parti del mondo, da tutte le parti del mondo. Questa era l'ultima canzone in programma per oggi, quindi ahimè dovremmo salutarci, però tranquilli, ritorneremo mercoledì sempre con il nostro appuntamento, con il nostro pomeriggio insieme e anche con la nostra rubrica Happy Cinema, giusto Giuseppe? Sì, allora ogni mercoledì, come ogni mercoledì, Happy Cinema, i film in uscita, avremo anche il preziosissimo intervento di Caterina da Palermo e vedremo anche le uscite del prossimo weekend, quindi non perdete assolutamente Happy Cinema mercoledì prossimo dalle 15 alle 17 all'interno di Semplicemente Insieme. Bene. Con la bellissima e simpaticissima Geri. Grazie Giuseppe, come sei gentile. Adesso vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di CRM, noi naturalmente ci risentiamo mercoledì, buona serata e come dico sempre fate i bravi. Ciao, ciao, ciao, alla prossima. Sempre.